diciamo, è di lunga data, nel senso che collaboriamo nello stesso Favola. Io dietro le quinte ho sempre partecipato alla creazione anche dello spettacolo da diversi anni fa. Siamo abituati ognuno dei due a aiutare, consultare, collaborare con l'altro nei diversi lavori che facciamo. Favola è stata solo un'evoluzione più importante di questa collaborazione. Bene. Allora, ricordiamo il film Favola di Sebastiano Mauri con Filippo Timi dal 27 al 20, dal 25 al 27 giugno in sala. Sebastiano, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille. Ciao. Ciao, a presto. Ciao, ciao. Siamo con Deborah Guma, co-direttrice del Festival Mix di Milano di cinema gay, lesbico e queer culture, dal 21 al 24 giugno, 32esima edizione. Deborah, ben trovata. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Allora, raccontaci un po', intanto, per chi non lo conoscesse, cos'è, che entità è il Festival Mix? Allora, il Festival Mix Milano, come tu dicevi, è stato fondato ben 32 anni fa a Milano e ovviamente da piccola iniziativa prettamente attivista di rassegna cinematografica negli anni è cresciuta. Si chiama tra l'altro Festival Mix Milano, oltre a voler sottolineare il senso del mix di culture, di internazionalità e di differenti arti performative, anche perché è affiliato a un circuito di festival internazionali che si chiama Mix, appunto, che sono a New York, oltre che a Milano, a New York, che è il più storico, a Lisbona, a Copenaghen, in Brasile, dove è enorme il Festival Mix, e così via. Alla storia di tutte le piccole rassegne che poi diventano dei grandi festival internazionali, quindi il Mix è iniziato in un cinema milanese, poi in un cinema più grande, poi ancora più grande, poi in un teatro, e 13 anni fa è approdato a quello che è, secondo me, ma non solo secondo me, il teatro e il più bel centro culturale di Milano, che è il Teatro Strehler, che è nel pieno centro. Sì, Milano. Sì. Allora, parliamo un po' di questa 32esima edizione. Intanto, quante le opere proposte? Abbiamo 50 film tra lungometraggi, con una grossissima sezione di lungometraggi, documentari e cortometraggi. Ok. Che vengono davvero da tutto il mondo, vengono dal Brasile, dall'Argentina, dall'Italia, finalmente delle bellissime opere dall'Italia, la Nuova Zelanda, la Strada, adesso nemmeno più mi ricordo. Quest'anno, tra l'altro, devo dire, grazie anche ad un anno 2017-2018 ricco di produzione, abbiamo una programmazione di cui siamo estremamente soddisfatti. Ti devo dire la verità, abbiamo dovuto ampliare gli orari di proiezione perché alla fine non siamo riusciti a fare una scelta più ridotta, per cui quest'anno è una vera e propria maratona. È suddiviso anche in sezioni il festival? Sì, appunto, quelle classiche di cortometraggi, documentari e lungometraggi, e per ognuna di queste sezioni abbiamo una giuria dedicata che assegnerà un premio. Quest'anno tra l'altro il MIT si è riempito di premi, no? Cinematografici, oltre a quello assegnato dalle giurie ce n'è uno al quale teniamo particolarmente, che è il premio del pubblico, che viene votato direttamente in sala tramite l'app, c'è il Festival Mix Milano che si scarica dagli store, c'è il premio di cui andiamo tra l'altro orgogliosi perché è la prima collaborazione col canale Sky La S, che assegnerà il premio al miglior documentario, o meglio al documentario che meglio rappresenta l'evoluzione culturale e sociale dei nostri tempi. Abbiamo menzioni speciali di ben due diverse riviste cinematografiche di prestigio. Insomma, per fortuna i film sono avevano più premi di film. Deborah, due curiosità. Una, quali sono le aree geografico-culturali più vivaci rispetto alla produzione di opere che state proponendo? E poi quali le tematiche più impellenti? Vivace, ma c'è un motivo che ti dico dopo, è sicuramente il Canada. Il Canada ha una produzione di una varietà e di una qualità che non è raggiunta, devo dirti, dagli Stati Uniti. Sì. E questo perché? Perché il Canada fa degli investimenti nella cultura e quindi anche nel cinema, dando modo ai propri artisti veramente di esprimersi al meglio. Sì. E quindi anche quest'anno abbiamo una fortissima rappresentanza di film dal Canada, devo dire uno più bello dell'altro, ma la questione è sempre la stessa: se le nazioni investono in cultura, ne hanno un immediato ritorno, Certo. perché ci pensa cosa succederebbe in Italia se si investisse più nella cultura, con tutti i giovani artisti che produciamo noi, ci sarebbe una produzione veramente che sarebbe il vanto del mondo. Sì, E invece, sì, che sì. dirti? E invece le tematiche più presenti nelle opere che proponete? Individuarne, poiché appunto quest'anno la programmazione è molto varia, è un po' complessa. Ok. Noi abbiamo orientato la nostra selezione di quest'anno a quello che è il tema al quale abbiamo voluto dedicare il festival, che è l'inclusione. L'inclusione dal nostro punto di vista, ovvero l'inclusione di tutte le realtà, di tutte le minoranze e soprattutto la valorizzazione di quelle che noi chiamiamo, cioè noi chiamiamo, insomma, non è molto originale, ma le identità parallele che compongono ogni essere umano. Quindi c'è un bellissimo spot che fa vedere tanti giovani che esprimono le loro identità parallele. Quindi io sono gay e musulmano, sono lesbica e cattolica, sono trans e avvocata, sono e così via. Sì. Quindi Ok. il tema fondante di quest'anno è l'inclusione. In chiusura, Deborah, ci lasci tutti i riferimenti web per le informazioni? Abbiamo un sito bellissimo e coloratissimo quest'anno che è www.festivalmixmilano.com e io lo so che siete a Roma, ma adesso abbiamo una bellissima linea veloce che ci collega a Milano. Se volete venire, aiutateci. Quello che non ho detto è che il festival è autofinanziato al 60% dei suoi costi e quindi se andate su Produzioni dal Basso ci trovate se volete aiutarci, però venite anche. Bene, bene. Allora ricordiamo 32esima edizione di Festival Mix Milano di cinema gay, lesbico and queer culture dal 21 al 24 giugno. Un saluto e un ringraziamento a Deborah Guma, una delle co-direttrici. Deborah, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Un abbraccio a te, grazie davvero, buona giornata. Siamo con Stefano Finesi di Teodora Film per parlare della distribuzione di Thelma, film di Joachim Trier in sala dal 21 giugno. Stefano, ben trovato. Ciao Federico, ciao a tutti. Raccontiamolo brevemente. Allora, il film esce giovedì ed è un film un po' atipico per Teodora perché, diciamo, sulla carta è un horror d'autore che però nasconde tante chiavi di lettura molto interessanti. La storia è quella di Thelma, una giovane ragazza di provincia norvegese che va a studiare a Oslo all'università. Lei viene da una famiglia molto religiosa, per cui si trova un po' spiazzata all'inizio e poi conosce Anya, un'altra studentessa, e nasce un'amicizia e poi anche qualcosa di più. In quel momento però, in questo che alla fine è una specie di passaggio all'età adulta, si scatena in Thelma una serie di strani poteri paranormali, inquietanti e incontrollabili. E da lì poi riemerge anche un terribile segreto del suo passato. Quindi alla fine questo film è un film bellissimo e difficile da descrivere, è come se fosse una storia di emancipazione femminile, però raccontata come una

a Firenze, a Fiorella e all'Odissea di Cagliari. Quindi abbiamo coperto, siamo molto contenti, diverse aree d'Italia e tutte le città più importanti in queste aree. Bene, ricordiamo The Escape di Dominic Savage in uscita in sala il 21 giugno per Fil Rouge Media. Un saluto e un ringraziamento ad Andrea Cirla. Andrea, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, grazie a te, a tutti. Grazie, ciao. È con noi Dario Barone di Camera Distribuzioni Internazionali per parlare del documentario This is Congo di Daniel McCabe, che sarà su Sky Atlantic il 24 giugno. Dario, ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Eccoci qua. Non è l'unica occasione, credo, questa del 24 giugno. Ci saranno anche altri passaggi o forme distributive? Direi che il film in questo momento è stato venduto a Sky, che lo metterà appunto sul canale Sky Atlantic, okay, in uno slot domenicale che si chiama Il racconto del reale. Lo slot appunto è della domenica sera alle 23:15, quindi un orario insomma non proprio facilissimo, e poi ha due repliche durante la settimana, una il sabato e una il mercoledì. Sempre allo stesso orario, okay. Quindi per il momento diciamo che chi vuole vedere questo film insomma deve avere l'abbonamento Sky. Altre forme distributive per il momento non sono state immaginate, e il cinema, come sapete tutti, è una cosa molto complessa, tanto più per un film di questo tipo, e le televisioni diciamo free al momento non sembrano interessate a metterlo in onda, okay. Magari nulla si può dire, insomma noi ci proviamo ovviamente. Sì. Dario, ce lo presenti? Questo è un film del 2017 appunto realizzato da Daniel McCabe, che è un reporter, un fotografo americano, aveva già lavorato in Congo nel 2013, che aveva fatto un cortometraggio per OpDocs, che la testata editoriale del New York Times, che fa appunto documentari cortometraggi, e in quell'occasione insomma aveva insomma stretto una serie di relazioni, aveva capito insomma che voleva raccontare questo paese così complesso. Lo ha fatto in maniera, a mio avviso, magistrale, dando sostanzialmente la voce dei personaggi. Lui molto differenti tra loro. Molto differenti tra loro, diciamo, sono quattro le figure portanti di questo racconto. Uno è un cosiddetto whistleblower, cioè una gola profonda, uno infatti è un colonnello dell'esercito, non si vede la sua faccia, la sua voce occultata per non renderlo riconoscibile, è però un uomo diciamo che ne ha passate tante, per tre volte è passato dall'esercito regolare ai ribelli, e già questo ci fa un'idea di che cosa vuol dire insomma, fare il militare in Congo, e qui lo conosce profondamente ed è un po' diciamo in qualche modo utilizzata come la voce narrante del film. Gli altri tre personaggi, che invece ovviamente seguiamo e vediamo in faccia e conosciamo, sono un colonnello sempre dell'esercito regolare, il colonnello Mamadou, un giovane soldato che è stato mandato a difendere la città di Goma. La città di Goma si trova nel nord-ovest del Congo, nella regione del Kivu, che sarebbe la regione mineraria al confine con Ruanda, dove appunto operano degli eserciti ribelli. L'altro personaggio che si segue è un sarto, un uomo che praticamente deve la sua vita, insomma la sua esistenza, grazie a una vecchia macchina da cucire che si porta sempre appresso, scappando praticamente da un campo profughi all'altro. E l'ultimo personaggio è Mamma Romance, che è una signora che insomma, per sbarcare il lunario e trovare il modo insomma di condurre una vita vagamente normale, commercia clandestinamente in minerali più o meno preziosi, quindi insomma fa un traffico clandestino di minerali. Questi personaggi vengono seguiti dal regista insomma, un po' nel loro vivere quotidiano, e vengono alcuni vengono insomma appunto diciamo fatti fanno delle dichiarazioni, vengono intervistati, non intervistati, perché lui è sempre, diciamo, con uno sguardo diciamo dietro la camera, e attraverso loro scopriamo appunto la follia, insomma, di questo conflitto che dura da più di 20 anni, il conflitto più lungo e più sanguinoso del dopoguerra, dalla seconda guerra mondiale, e ininterrottamente da 20 anni appunto il Congo è in guerra. È un paese cruciale perché è un paese ricchissimo, ricchissimo di minerali, ovviamente sul Congo ci sono gli interessi di tutti i paesi occidentali, a partire vabbè, dal Belgio, il Congo era un'ex colonia, e questo insomma fa sì che l'instabilità politica, la corruzione sia altissima. Quello che a me pare veramente straordinario di questo film è che appunto non, insomma, è uno sguardo molto interno, molto interiore, molto congolese, insomma, privo di filtri, privo di mediazioni, quindi molto diretto, molto bello, insomma, senza, ecco, diciamo che non c'è una voce che racconta, no? Una voce occidentale, insomma, che in qualche modo vuole mettere il cappello narrativo, ma insomma sono loro che parlano, sono loro che raccontano, è un'umanità straordinaria, e fin tra l'altro di una bellezza incredibile, perché ecco appunto la mano di questo fotografo si vede, perché sono delle immagini veramente stupende, insomma, ci fanno vedere un paese meraviglioso e purtroppo appunto devastato dalla guerra. La cosa, ecco, forse che potrei dire per concludere questa presentazione è che capita particolarmente, come dire, a proposito, diciamo, nel dibattito, chiamiamolo politico, insomma, di questo momento, perché si parla molto di immigrazione, si parla molto di Africa, c'è questa retorica del aiutiamoli a casa loro, ma dietro tutto questo credo che ci sia un'ignoranza enorme, gigantesca. Ecco, penso che appunto i fautori dell'aiutiamolo a casa loro, se avranno la possibilità di vedere questo film, capiranno, insomma, che stanno un po' giocando con le parole, insomma, che intervenire in quei luoghi è estremamente complesso, estremamente difficile. Anche perché a casa loro poi ci sono gli interessi dei paesi che stiamo tirando in ballo, insomma. Certamente, certamente, e che sono chiaramente la causa, insomma, di tutto quello che in questo film viene raccontato. Sì, sì. Senti, c'è uno spazio web di riferimento per saperne di più? C'è uno sito web che è il sito ufficiale del film, che è tisiscongo.com, mi pare, adesso non vorrei dirvi una sciocchezza, però sì, è www.tisiscongo.com ed è il sito web ufficiale del film. Benissimo, allora... Ovviamente è in inglese, insomma, però non credo che sia un problema. Ricordiamo il documentario This is Congo di Daniel McCabe su Sky Atlantic il prossimo 24 giugno. Un saluto e un ringraziamento a Dario Barone di Camera Distribuzioni Internazionali. E Dario, a questo punto ci diamo appuntamento per le prossime uscite, i prossimi aggiornamenti. Sì, speriamo presto con nuovi film importanti. Scusami, aggiungo domenica 24 giugno alle 23:15. L'orario sì. Non facile, ma insomma spero che appunto di ricordarlo a tutti. E allora ricorda anche le due repliche successive? Le due repliche successive, il mercoledì e il sabato, sempre senza orario. Perfetto. Un abbraccio e a presto, Dario. Grazie, ciao. Amico, grazie a voi. Ciao. Siamo con Walter Bencini, regista del documentario Gli ultimi butteri, in distribuzione in sala dal prossimo 21 giugno. Walter, benvenuto. Sì, ciao, buongiorno, benvenuto a tutti i radioascoltatori. Noi ci eravamo già sentiti per un tuo lavoro precedente, allora lo racconti questo? Diciamo che questo film si racconta un po' con un linguaggio poetico la storia lavorativa di alcuni veri butteri mare in mano, insomma, attraverso comunque lo scorrere delle stagioni, dove traspare un modello produttivo alternativo che tutela il benessere animale, dell'ambiente e comunque anche della gente che ci lavora. La nostra storia si svolge ad Alberese, in Maremma, dove da generazioni si pratica l'allevamento bovino,